Sì. Basta, andrà a mettere la cara su. Permesso? Dai, forza! Dove sto? Si prende il segnale. Madrid, Da Fabrizio si è fatto mettere per spostare qua dove mettere il cappello. Sì, infatti lui vuole grazie. La parola. Allora è venuto da lei. Cioè, io ho detto te lo mette lei, no? Ma lui è un po' così, sai? Ma io vediamo pure con noi, ma non parla. Ma mamma, come prendo con te? Dio, quella! E perché te lo sei levato? Mo sì! Leva quel dito, Chico! Chico! Nonno, va bene? No! Sto troppo, spacca! No, Fabrizio! Le scarpe di chi? Ti stanno bene questi? Chi sono? Del Vaticano? Sono troppo! Enzo dove sta? Manda in padre domenica. Enzo sta qua. Deve andare là. Mamma te lo dà. C'è la sua. Enzo il marco di terra da Domino. Adesso cazzo io che so. Carizia il marco di terra. Ma sai che fa. Ma io scendo poi. A me qui. No, aspetta, ne avevo mangiato. Questo è qui c'è Loretta e qui c'è Maria. Ci vogliono la figlia. No, ho fatto, no, però prima. Dobbiamo rimangiare. Così va. Sì, siamo no. Ma Loretta dove sta? Ci hanno detto pure che noi eravamo così. Chi c'è? Alessandro, bravo! Fabrizio! Bravo Alessandro! Allora, buon appetito! Mangiate, affamati, dai, che ci buon appetito, uccise i cartelli! Ma vuole venire la preghiera? Ma vuole la preghiera, ma non c'è niente! Ma vuole io rispetto, ma Non c'è niente,

Cioè, però non manca più. Ma cosa stai? Da un minuto. Dai, dico! Si, per la casa di Dio. Come l'agenzia, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, bravo! A Maria ho portato un sacco di roba. No, la gente va a formaggi francesi, il caprino, lo chèvre, lo faccio io a casa. Io invito se no. Noi lo fanno pure il colorante. Ma no, allora. Lui ha la frittella, lui gli dà. Ho detto vai. Chiaro, vuoi la frittella? Ho detto vai. Io no, io molto. Mettetelo sotto, Massimo. Vuoi, mi sei messo di fare la frittella? No. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Come vedi ancora? Io come si chiama? A Lussemburgo Babbo Natale? Nicola Noè. Ma quanti giù? C'hanno pure Babbo Natale. Babbo Noè. Come si chiama? Babbo Noè. Grazie, vai a prendere il papà. Santa Nicolaus. Guarda che adesso ci sono due broccoli cosi, poi di quella rubetta lì è finita. Ah, a proposito, come c'è da prendere il peperone? Ragazzi, va bene se prendo domani. I peperoni, e poi lo condividi. Che c'è questo? Io l'anno scorso in questo periodo avevo preso 3 secchiali d'acqua di notte. Branda. Come ti chiami? Ma Paolo, senta io. Come ti chiami? Federico? Ma io guarda, poi il giorno dopo, stasera, ho portato la messa di canzone. Io guardavo un canesco. Allora, che prego? Come portare un canesco? Applausi, bravo, Chico, bravo! Perché? Io non direi che ho fatto l'acqua. Io ho curato la morte, sapete? Se non avete lui, scappa lui. Il bambinello che ti faccio più fa spazio. Domani ci prende gli anni passi. Chico, come si? Poi diventa di amici, è ovvio. Poi il bambino spazio, perché sono per l'educazione, no? Questo prima. Allora la maestra di tutti i bambini spazi dice, chi è che riesce a fare questo movimento è Don Bergerà. Tutti i ragazzini si impegnano, no? C'era questo. Non so, allora, che riesce, bravo! Io vado. E l'ha gelato, questo che ha gelato, va. Il nuovo eroe, il nuovo eroe è Federico. Padre, se lo mangia, si mangerà un pezzo di formaggio. Signori, non vuole Federico. La gente non vuole andarci senza piedi. Non vuole andare senza piedi. Non vuole andare senza piedi. Ma qui, l'uomo dell'anno. E me ammazzasse, ammazzasse, tante cose sono cambiate. Perché le mie briglie quello che fa la discoteca? Per me. a cartone, non devi rubare un pezzo di mare. Non messo a voi, sono andato a vedere. Adesso, aspetta, mamma, alla bella frutta. E vagino no, che frutta, ho. No, era così poco, allunga il suo mare, ma sempre malato. Era così poco. Grazie, non c'è nient'altro, ci mettiamo. C'è questo gatto qui. Sì, grazie. Volete un ospedale? Poi la voce deve cantare. Sì. C'è un'altra coppia, ma detto come fa il gatto? Grazie. Zio Franco, senti, sta mettete il forno al decente brenda, allora mettete il forno e mettete il forno gli vogliamo, allora dice non si può gridare, no. Senti, ma metta 100 gradi, no? Apri, niente, questo è buono. 300 gradi, fino a 1000. Grazie. Fino a 1000, fondo, fino a 1000. Hai capito, ancora. La conosce il Siro, perché no, per correzione conosce la pubblicità dei sottilanti. Ma se no, sono gente grazie, vanno fondo le fila, non è? No, si ammazza le lacrime. Ci vuole dentro il fuoco, no? Ma io ho detto che Allora se è bello fuori e tagliato dentro. Ma io ho fatto il sabato. Natale c'è le palle di vino.